24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati con questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Dario Ricci. Primo piano il perdurare dell'incertezza sulla crisi greca, con l'accordo tra Stato ellenico e creditori che stenta ad arrivare. Poi il maltempo che continua a fare vittime in tutto il continente, mentre allarme per le forniture di gas dalla Russia in Italia. La Gran Bretagna intanto celebra i 60 anni di regno della regina Elisabetta, mentre è un giorno nero per un altro re, quello del ciclismo, lo spagnolo Alberto Contador, squalificato per 2 anni per doping. Partiamo dall'incontro di oggi a Roma tra il premier italiano Mario Monti e il segretario generale dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Angel Gurria. La riforma del mercato del lavoro come strumento per rilanciare la crescita aggredendo la disoccupazione giovanile. Il presidente del Consiglio Mario Monti getta acqua sul fuoco delle polemiche, respinge la tesi di un governo in conflitto con i sindacati e spiega: mi sfugge completamente quale potrebbe essere la ragione di un intento da parte del governo di esasperare alcunché, particolarmente in una materia importante, socialmente cruciale come il mercato del lavoro. Abbiamo discusso il programma di riforme strutturali avviate dall'Italia per superare i nodi che bloccano la crescita, spiega ancora il premier al termine dell'incontro con il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria. Da queste riforme, non sempre gradevoli, vengono benefici di crescita senza dover aspettare troppo. L'OCSE sosterrà l'Italia sulla strada delle riforme, dice il segretario generale Gurria. L'Italia ha avviato un programma di riforme molto ambizioso, ma indispensabile per rafforzare la finanza pubblica, rilanciare la crescita. Gurria parla di sfide cruciali per l'Italia, concorrenza e mercato del lavoro. Infine la Grecia, la loro situazione è difficile, spiega Monti. Fa piacere, aggiunge il premier, se Atene deciderà di prendere in considerazione alcune delle cose fatte da noi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La ventata di freddo siberiano non ha tirato il freno e continua ad avanzare sull'Europa occidentale. I morti sono stati 250, la maggioranza in Ucraina, dove le tempeste hanno toccato i 33 gradi sotto zero a causa dell'ipotermia. In Polonia sono morte 8 persone, mentre in Russia le vittime sono 60. In Bulgaria 16, in Ungheria 6, in Romania almeno 34. 5 i morti negli ultimi 2 giorni anche in Francia. E allerta meteo e calo delle forniture la Russia mettono a rischio l'approvvigionamento di gas in Italia. Per le famiglie al momento non si prevedono problemi, già dalle prossime ore saranno invece possibili distacchi nelle forniture di gas per le imprese con contratti che lo prevedono. Per produrre energia sono state poi attivate anche le centrali elettriche ad olio combustibile. Sono queste le prime misure adottate al Ministero dello Sviluppo per fare fronte all'emergenza gas determinata dal picco dei consumi e dal taglio delle forniture dalla Russia, conseguenza del grande freddo di questi giorni. La situazione è critica ma ben monitorata, assicura il ministro Passera. Preoccupata per i distacchi alle imprese, invece, la presidente di Confindustria, Marcegaglia, chiede anche di attingere alle riserve. Le imprese hanno già subito gli scioperi dei TIR. In alcune aree del paese la impossibilità di lavorare o di spedire per problemi del maltempo, se adesso si dovesse aggiungere anche questo, chiaramente questo rischierebbe di creare una forte penalizzazione per le imprese. Oltre al freddo siberiano, nel frattempo dalla Russia sembrano arrivare anche buone notizie. La Gazprom, che negli ultimi giorni ha ridotto fino al 30% le forniture di gas all'Europa, fa sapere che il peggio dovrebbe essere alle spalle e assicura che si sta facendo ogni sforzo per riportare la situazione alla normalità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora lo stallo politico sulla crisi greca, con l'accordo sul debito di Atene che stenta ad arrivare. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. I partiti, soprattutto il partito di neodemocrazia, che è il partito conservatore in Grecia guidato da Antonis Samaras, non vuole altre misure di austerità, perché naturalmente ritiene che questo non sia più sopportabile per i greci, e soprattutto perché dice manca la crescita, cioè se non ci sono aiuti alla crescita il paese, che è al quarto anno di recessione, non potrà dare né rifornire quelle entrate fiscali necessarie per poter rimettere il deficit in bilancio. A questo punto ci sono in ballo due situazioni molto pesanti: la riduzione dei salari, chiesta appunto dalla Troica, perché se tu non puoi svalutare devi ridurre il salario come elemento di competitività, e nuovi fondi per salvare le banche greche, che dovranno partecipare alla perdita di potere, il cosiddetto taglio, la haircut dei bond greci. Quindi 130 miliardi non bastano, ce ne vogliono almeno altri 15. La Grecia segue l'esempio dell'Italia, dove il governo guidato da Mario Monti ha fatto progressi spettacolari riuscendo a calmare le tensioni dei mercati finanziari. Lo ha detto il presidente della Francia, Nicolas Sarkozy, nel corso della conferenza stampa tenuta a Parigi insieme alla cancelliera Angela Merkel. «Noi ci rifiutiamo di riconoscere il fallimento della Grecia, non possiamo accettarlo», ha detto la cancelliera tedesca. E ora i mercati continentali, condizionati proprio dagli sviluppi della crisi greca. Chiusura in rosso, con Londra che perde lo 0,15% e Parigi lo 0,66%. Negativa anche Piazza Affari. Exploit sorprendente per Unipol e per Fondiare Assai in borsa, nel giorno in cui le banche hanno definito il consorzio di garanzia per il doppio maxi aumento di capitale dei due gruppi assicurativi destinati all'integrazione. Proseguendo nel rally iniziato a fine gennaio, quando l'accordo per il matrimonio delle polizze è stato formalizzato, Unipol ha guadagnato il 30% e Fondiare Assai il 31%. Un balzo inspiegabile secondo quasi tutti gli operatori, visto che l'unico fattore di appeal, cioè l'ingresso dei francesi di AXA nella partita per il controllo di Fondiaria, sembra per ora un'ipotesi con scarse chance di realizzazione. Tonfo del 5% invece per Buzzi Unicem. In attesa dei primi dati sui conti 2011 di gruppo, le stime sul 2012 della controllata tedesca Dieckerhoff hanno consigliato i realizzi sul titolo, che da inizio anno ha guadagnato quasi il 25%. Da Radio Corp per Radio 24, Andrea Fontana. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo che consente di far cadere il contenzioso aperto davanti alla WTO sui dazi americani imposti ai prodotti europei oggetto di investigazioni antidumping. Il risultato immediato dell'accordo è che nessun esportatore europeo sarà soggetto nel futuro a dazi antidumping zeroing. La Commissione dell'Unione Europea monitorerà attentamente l'applicazione dell'accordo da parte degli Stati Uniti, afferma Bruxelles. Mitsubishi annuncia la fine della produzione di veicoli presso l'impianto in Olanda, diventando così il primo produttore giapponese di auto a tirarsi fuori dall'Europa occidentale dallo scoppio della crisi del debito sovrano. La decisione sarà operativa entro la fine del 2012. La casa nipponica rifocalizzerà la produzione in India e in Russia. E ora andiamo in Gran Bretagna con la regina Elisabetta, che ha festeggiato i 60 anni di regno. Prima di lei, solo la regina Vittoria nel 1897 era riuscita a festeggiare un simile traguardo. Era il 5 febbraio del 52. Re Giorgio VI morì nel sonno. La notizia raggiunse Elisabetta e il consorte Filippo in Kenya, dove si trovavano per un viaggio in rappresentanza del re malato e dove, ospiti di un hotel su un albero, erano riusciti a fronteggiare un branco di elefanti che aveva invaso la radura. Quel giorno in cui erano scampati alla morte cambiò per sempre la loro vita. Le cronache raccontano di un principe Filippo affranto alla notizia della successione, era infatti la fine della sua indipendenza, e di una Elisabetta allora 25enne e impassibile, nella piena accettazione del suo destino. Con la convinzione che regnare fosse un dovere e non un privilegio, Elisabetta ha trascorso 60 anni difficili, durante i quali, mentre affrontava i 450 impegni ufficiali all'anno, stringendo mani, con il sorriso sempre pronto, i cappellini e i vestiti color pastello, il resto della famiglia finiva sui tabloid per scelte e matrimoni sbagliati. E ora, per festeggiare il suo giubileo di diamante, ha deciso di cambiare le regole della successione. L'eventuale figlia della coppia William e Kate potrà infatti regnare anche se dovesse avere poi un fratello minore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con lo sport, con la squalifica per doping del grande dominatore delle corse a tappe del ciclismo europeo e mondiale, lo spagnolo Alberto Contador. Il fuoriclasse spagnolo Alberto Contador, vincitore di 3 Tour de France, un Giro d'Italia e una Vuelta, è stato condannato dal Tribunale Internazionale a 2 anni di stop e alla perdita del Tour del 2010 per la positività al clenbuterolo. Il corridore spagnolo, 29 anni, è stato ritenuto colpevole di assunzione deliberata di doping. Ricordiamo che il 21 luglio 2010, sempre al Tour, nella tappa di riposo di Pau, A Contador vennero trovate lievissime tracce di clenbuterolo, sostanza vietata dall'antidoping. Il corridore si è sempre difeso attribuendo la positività a un normale filetto mangiato precedentemente. La squalifica dopo un procedimento di quasi 18 mesi decorre dalla grande boucle di 2 anni fa, quindi Contador potrà tornare a correre il 5 agosto, ma non potrà partecipare né al prossimo tour né alle Olimpiadi di Londra. Cambierà anche l'albo d'oro. La maglia gialla del Tour 2010 dovrebbe passare al lussemburghese Andy Schleck, a Michele Scarpone invece il Giro del 2011. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per 24 ore in Europa è tutto. Un saluto da Dario Ricci. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.